America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da Washington, Mario Platero. Together we are going to start a new energy revolution, one that celebrates American production on American soil. Ecco, Donald Trump ha firmato l'ordine esecutivo e dunque ha abolito formalmente il progetto di riforma ambientale di Barack Obama, che devo dire aveva già incontrato alcune difficoltà, di fatto era stato in qualche modo già bloccato dal punto di vista pratico, però c'è un messaggio simbolico piuttosto importante. Per il resto il dibattito politico così continua a essere articolato attorno a quello che è successo la settimana scorsa, cioè attorno alla sconfitta dei repubblicani che non sono riusciti a dimostrare l'unità del partito, controllano in Parlamento, Camera, Senato, controllano il potere esecutivo con la Casa Bianca, eppure non sono riusciti a ottenere il voto per la riforma sanitaria. E dunque questo ha un po' scompaginato a Washington gli equilibri politici. Per cui, in attesa di capire che direzione si prenderà, si parla molto di riforma fiscale. C'è però un altro obiettivo che si accompagna alla riforma fiscale, e cioè quello degli investimenti infrastrutturali. E devo dire, a me è sempre molto colpito questo attivismo di Trump sul piano economico. La borsa ha scontato queste due iniziative molto importanti, perché di fatto l'America arriva al secondo, di questo ne abbiamo già parlato in questa trasmissione, al secondo giro di boa. Dopo i piani di stimoli monetario e fiscale da parte dell'amministrazione Obama, che hanno creato anche 15 milioni di posti di lavoro, crescita continuata, ormai siamo nel nono anno di crescita, ecco che Trump ricomincia. E ricomincia nel momento in cui la Federal Reserve comincia invece a stringere la politica monetaria. Ecco, per me questa svolta americana è anche un po' una lezione per l'Europa, che resta ferma. E in questi giorni a Washington c'è di passaggio un imprenditore italiano, Pietro Salini, che è amministratore delegato di Salini Impregilo, che è una delle più importanti compagnie europee e mondiali di costruzioni proprio infrastrutturali. E devo dire che questa azienda ha avuto, come dire, una visione, perché a un certo punto, già un paio d'anni fa, quindi molto prima delle elezioni americane, ha acquistato un'azienda americana che opera nel settore infrastrutturale, che si chiama Lane. E dunque con me ai microfoni America 24 proprio Pietro Salini, amministratore delegato di Salini Impregilo. Buongiorno Salini. Buongiorno a tutti. Allora, intanto parliamo dall'ambiente, perché un'azienda come la sua è stata molto attiva nello sfruttamento di impianti geotermici, molto visionaria. Avete fatto gli impianti geotermici in Islanda, lo stesso canale di Panama, tutto sommato, ha sfruttato delle cose molto interessanti per il riciclo dell'acqua. Il fatto che ci sia la percezione che si faccia un passo indietro sul fronte dell'ambiente, secondo lei è preoccupante, è giusto, è sbagliato? Ma intanto non credo che si faccia un passo indietro. La preoccupazione di fondo che credo che colga l'amministrazione è che oggi il grande lusso che abbiamo di fronte è l'ambiente, cioè cresce la popolazione mondiale, crescono le aspettative, tutti vogliono il benessere a scapito dell'ambiente in qualche modo. E quindi il lusso che noi abbiamo di fronte, quella la domanda che ci dobbiamo porre, è come fare a dare da mangiare a tutti, da vivere a tutti, il benessere per tutti, mantenendo l'ambiente perfetto. Questo è quello che vorremmo. Ma prima di poter fare questo, perché chiaramente questo è un desiderio, è l'equilibrio, cioè questa scelta di mantenere l'ambiente intatto e avere la gente soddisfatta e contenta, che è la cosa più difficile da affrontare, la scelta politica è complicata. Nei nostri progetti noi abbiamo sempre privilegiato la difesa dell'ambiente, è uno dei temi importanti in cui l'ingegneria cambia il risultato, quindi come si fanno le cose. Lei accennava a Panama. Panama noi l'abbiamo vinto proprio cercando di salvaguardare l'ambiente, quindi scegliendo una tecnica che consente di riciclare l'acqua dolce a scapito di quella salata, e quindi abbiamo vinto questa grande infrastruttura. E lo facciamo sempre, però questo è il tema. La sfida è denaro, come si spende, chi si soddisfa e l'ambiente come viene trattato. Ecco, lei a un certo punto però ha scommesso sulle infrastrutture americane e ha comprato questa azienda americana. Lei era sicuro che ci sarebbe stato un qualche sviluppo infrastrutturale? Perché, insomma, ha visto molto bene in retrospettiva. Come le è venuta in mente questa idea di prendere la Lane? Beh, mi è venuta in mente perché da quando vengo negli Stati Uniti, da quando ero ragazzino, ho visto che le infrastrutture sono rimaste più o meno le stesse, quindi ogni volta che si prende l'aereo si veniva qua e si vedeva che quello stesso ponte che si vede da 50 anni è sempre lì ed è sempre in una situazione più decadente del giorno prima. Quindi insomma, l'idea era quella di dire, bene, ma gli Stati Uniti effettivamente ricchi, potenti, meravigliosi, queste infrastrutture un giorno le rimetteranno a posto, sì o no? Allora, questa è stata la nostra idea, di dire, bene, investiamo negli Stati Uniti, quindi indipendentemente dalla scelta nuova dell'amministrazione, facciamo un piano sugli Stati Uniti, ci sarà sicuramente bisogno di gente come noi che rifà questo patrimonio infrastrutturale che loro hanno fatto prima degli altri. Le grandi autostrade, le grandi ferrovie, lo sviluppo del West, sono tutte accompagnate da questo grande sviluppo delle infrastrutture, che però è avvenuto oramai due secoli fa, quindi tutte quelle stesse infrastrutture sono oggi state utilizzate e sono vetuste, quindi bisogna rifarle. E soprattutto sono cambiate anche delle grandi direttrici economiche, quindi sono cambiati i punti dalle quali si deve andare e dalle quali vengono le merci, e quindi bisogna rifare un piano infrastrutturale che tiene conto delle novità della geografia economica del paese. 30% negli Stati Uniti, 7% in Italia. Siete un'azienda globale. Cosa significa per un italiano gestire un'azienda globale? Beh, noi lavoriamo in 55 paesi, abbiamo circa 40.000 dipendenti dislocati nelle varie zone del mondo. Certo, la mattina inizia dall'Australia e poi finisce la notte nella costa degli Stati Uniti. Quindi è evidentemente una giornata un po' particolare, dove sono i problemi, io vivo i problemi dove ci sono. Qual è il giro d'affari che avete oggi e che cosa avete in prospettiva in termini di diversificazione di fatturato geografico? Ma noi stiamo crescendo molto negli Stati Uniti, come dicevo quest'anno facciamo il 30%, lo dovevamo fare nel 2019, ma stiamo anticipando la dimensione del giro d'affari negli Stati Uniti. In Europa vedo una crescita importante, sono mercati stabili, quindi non solo Italia ma anche Francia, anche Nordic. Stiamo crescendo in Australia, stiamo crescendo nel Middle East, quindi sono le aree del mondo che oggi ci interessano di più. Abbiamo un giro d'affari oggi di circa 7 billion nel 2017, contiamo di raggiungere i 9 billion nel 2019, che significa un'azienda globale che effettivamente con i suoi 50.000 dipendenti vive in tutti questi paesi del mondo, essendo praticamente national nel posto dove si trova. Ecco, per chiudere, che consiglio può dare agli imprenditori che ci ascoltano? Perché voi avete dimostrato che è possibile essere azienda globale partendo dall'Italia, non ce ne sono tante. Qual è la lezione che dobbiamo imparare o che lei ha imparato per rispondere a una sfida globale? Non bisogna avere paura. È tutto possibile, la nostra storia dimostra che anche da italiani e dall'Italia si può fare tutto. Noi ce l'abbiamo fatta, non siamo particolarmente intelligenti o bravi, lo possono fare anche altri. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive momenti di tensione ma resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su americanprivato.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, Pietro Salini sempre con me, i microfoni di America 24. Beh, che canzone le viene in mente? Beh, per rimanere sul tono che abbiamo dato alla trasmissione, con me è Bridge Over Troubled Water di Simon & Garfunkel, che hanno segnato un po' la mia giovinezza e che sai, forse è una canzone adatta a dire che oggi abbiamo bisogno di ponti per superare le difficoltà delle acque turbolenti. Beh, quindi Bridge Over Troubled Water, simbolicamente un ponte, ma anche un augurio. Speriamo che si costruiscano questi ponti. Quindi Bridge Over Troubled Water di Simon e Garfunkel. When you're weary, feeling small, when tears are in, I will dry them all. I'm on your side. Oh, when times get rough and friends just can't be found, like a bridge over trouble. Da Washington è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!